I would like to sing with you a beautiful Neapolitan song where I come from. Maestro. Che per la cosa na giornate sole, l'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornate sole. Yeah.